Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. Quando la velocità è tutto. La data ufficiale è il 4 luglio 1776, data della dichiarazione di indipendenza. Parliamo della nascita degli Stati Uniti d'America. Ma c'è un'altra data, meno nota eppure altrettanto evocativa, ed è il 10 maggio 1869. Siamo a Promontory Point, una località presso Ogden, nello Utah, e dopo 6 anni dall'inizio dei lavori, gli operai della Union Pacific e della Central Pacific inchiodano insieme le ultime traversine della linea ferroviaria che collega l'est e l'ovest degli Stati Uniti, l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico. Improvvisamente i coloni, che impiegavano, pensate un po', da 4 a 6 mesi per raggiungere la California a partire dall'Oregon, che è a metà continente, a bordo dei carri che sono stati resi celebri da tanta cinematografia, ebbene, riescono ad andare da New York, quindi dall'Oceano Atlantico, a San Francisco in soli 7 giorni. È una rivoluzione, ed è una rivoluzione che continua tutt'oggi, quella dei trasporti veloci che stanno globalizzando il mondo. E questo è il tema di Archimede di oggi. Parleremo di treno, parleremo di aereo e di altro ancora, ma partiamo proprio dal treno, e quindi introduco il primo ospite, che è Donato Carillo, direttore della direzione tecnica di Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato. Buongiorno Carillo, benvenuto ad Archimede. Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che ci ha offerto. Allora Carillo, visto che è anche estate, siamo tutti in vacanza, tra il serio e il faceto, oggi abbiamo deciso di cominciare così. La gente va a piedi o va a cavallo? Non è vero che si va a piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera, Caleonardo. Come? Col treno. Treno. Bravo. Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, 2 binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Se non ti preoccupate, se ne finisce subito, è binario morto. Allora Carillo, questo era Benigni. Scena memorabile. Non ci resta che piangere mentre cerca di convincere Leonardo da Vinci, niente meno, a progettare un treno che è arrivato un bel po' dopo, insomma è arrivato nell'Ottocento, e che però ancora oggi direi che è tutt'altro che su un binario morto. E proprio in Italia sta arrivando la nuova generazione di treni ad alta velocità. Allora mi spieghi un po' che cosa avranno in più dei Frecciarossa quelli che già oggi possiamo prendere, insomma. Melis, l'innovazione ferroviaria oggi punta su temi che sono trasversali alla tecnologia. I problemi che noi incontriamo nello sviluppare nuovi prodotti sono quelli evidentemente dell'efficientamento, della riduzione della potenza specifica, per attingere poi delle prestazioni più elevate. Cioè, insomma, io penso un attimo al Frecciarossa, sì, che sostanzialmente ha un 12 kW per ogni tonnellata trasportata. I nuovi treni ad alta velocità avranno 20 kW per tonnellata trasportata, però permetteranno di raggiungere i 400 km ora. Sulle linee che ci sono attualmente, quelle sulle ad alta velocità? Sulle linee che ci sono, senza alcuna modifica infrastrutturale, perché lei comprende benissimo, il costo maggiore per l'alta velocità sono proprio le infrastrutture. Sostanzialmente quali sono i filoni lungo i quali noi praticamente operiamo, in collaborazione evidentemente con l'industria del settore che sviluppa prodotti insieme a Trenitalia. Innanzitutto l'alleggerimento dei treni, quindi l'utilizzo di materiali e soprattutto leghe leggere e materiali compositi per ridurre la massa. Certo. L'utilizzo di semiconduttori veloci che sono più leggeri e più affidabili. Di semiconduttori parliamo di elettronica? Elettronica, quindi okay. L'elettronica che alimenta i nostri motori asincroni. Ok, d'accordo. L'altro discorso importante è quello dell'efficienza aerodinamica. Io ricordo che nel 2002 abbiamo fatto un esperimento dove abbiamo provato su un Frecciarossa a carenare praticamente completamente i carrelli, quindi a renderli, ad eliminare il turbinio che c'è praticamente fra suolo e ruote, e carenando completamente i carrelli abbiamo ottenuto un'efficienza di circa dell'8%, quindi superiore. Lei capisce benissimo che un treno ad alta velocità, la resistenza aerodinamica, che poi è proporzionale al quadrato della velocità, certo, agisce sostanzialmente in un treno lungo le pareti laterali più che sulla sezione frontale, sulla sezione maestra. E quindi nel nuovo treno ci saranno una serie di accorgimenti e innovazioni per ridurre praticamente tutti gli effetti aerodinamici sul fianco del treno in maniera tale da realizzare un solido che viaggia senza particolare turbinio. Senza troppe sporgenze che disturbano, insomma, il flusso dell'aria nei dintorni. Se poi le tiene presente che in Italia abbiamo una conformazione geografica legata alle gallerie, l'effetto siringa del treno, il treno trova effettivamente una grossa resistenza aerodinamica. Quindi l'obiettivo è studiare delle superfici, quindi una grossa collaborazione, in particolare con diversi politecnici, tra cui quello di Milano, per determinare i profili ottimali al fine di ridurre la resistenza aerodinamica. Eh sì, perché quando entrano in galleria alcuni treni a quella velocità fanno addirittura, se ho capito bene, una specie di boom sonico, cioè c'è la compressione dell'aria quando il treno entra, cioè, praticamente è la compressione dell'aria in avanti e la rarefazione sulla coda, certo. Cioè l'effetto coda, quindi, che trattiene il treno. E un'altra cosa che mi sembrava interessante, mi sembra di aver capito una direzione di lavoro, è quello di come dire, sparpagliare la forza motrice, cioè non più delle locomotive. Ecco, ci spieghi. Allora, la metà dei carrelli saranno dei carrelli motori. La motorizzazione non sarà più concentrata come nel Frecciarossa, nelle due locomotive, una in testa e una in coda, ma avremo praticamente una distribuzione della potenza in maniera da avere una maggiore affidabilità nel caso di avaria, quindi un maggior frazionamento della potenza, ma in più in condizioni di aderenza degradate, quali possono essere la neve, la pioggia o in particolare praticamente con perdite di azionamenti, riusciamo a dosare meglio la potenza in maniera tale da ottenere sempre il famoso obiettivo, che è quello dell'affidabilità. È un po' come passare al 4x4, insomma. Perfetto. D'accordo. Senta, l'altro grande, insomma, elemento anche di fascino dei treni è appunto la velocità, che attualmente è cresciuta parecchio, però guardando più avanti, pensando per esempio al Maglev, io ho preso quello che da Shanghai porta all'aeroporto di Pudong. Il Maglev è quel treno che corre su un cuscinetto magnetico. E tra l'altro mi pare il caso di farvelo sentire un attimo. Ecco, è passato un treno, normalmente ci impiega qualche secondo, invece qui ci mette pochissimo, risentiamo. Dunque, Carillo, è un aereo che vola a raso terra. Sostanzialmente il campo magnetico sostiene il treno, non c'è un effetto di rotolamento su un binario e quindi evidentemente le resistenze sono ridotte. Però per ottenere queste prestazioni è chiaro che va realizzata un'infrastruttura ad hoc. E sa benissimo che questi progetti sono nati in Germania, quando i tedeschi approcciavano il problema dell'alta velocità, però alla fine poi li hanno abbandonati. Perché? Perché sostanzialmente un treno a levitazione magnetica richiede un'infrastruttura dedicata e non ci può essere un'interconnessione praticamente con le altre reti ferroviarie. Certo, è proprio un mondo a parte. È un progetto che sostanzialmente trova delle applicazioni limitate. Un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, i cinesi da questo punto di vista si danno molto da fare, è questa idea che riguarda un treno che andrebbe da Pechino a Guangzhou, sono circa 2300 chilometri, sul quale si sale al volo. Com'è possibile? Beh, ho visto anch'io qualcosa. Si parla di un treno che ridurrebbe la velocità in prossimità di stazioni. I viaggiatori sono già su una sorta di navetta, arriva lo shuttle che rallenta, lascia la navetta con i viaggiatori che devono scendere e prende la nuova navetta con i viaggiatori che si imbarcano. Sul tetto, se ho capito bene. È un progetto che si sta sviluppando, però per esempio nella nostra realtà ha dati problemi di sagoma limite per via della nostra orografia. Cioè la presenza sempre le solite gallerie di cui parlavamo prima, insomma, con un'altra roba sul tetto non ci si passa. Una navetta che praticamente sale su uno shuttle e poi viene depositata, in effetti va a creare una sagoma, a ingombrare una sagoma, e noi non siamo in grado di poter gestire un progetto simile. Grazie Donato Carillo. Grazie a lei. Archimede, tra passato e futuro. Bentornati ad Archimede, Maurizio Melis al microfono, puntata dedicata ai trasporti, quelli veloci, resi possibili dal treno, ne abbiamo parlato finora, e poi dall'aereo. Era il 17 dicembre 1903 quando il Flyer One dei fratelli Wright prendeva il volo rimanendo in aria, pensate un po', per la bellezza di 266 metri. Beh, insomma, un volo decisamente breve, eppure un po', a giudizio di tutti, sufficiente ad aprire un'era. Passano infatti solo 35 anni, siamo a New York nel 1938 e sta per concludersi un'impresa straordinaria. Prima di parlarne però vi presento il secondo ospite di oggi, che è il professor Cesare Cardani, docente di strumentazione aerospaziale e impianti aerospaziali al Politecnico di Milano. Benvenuto Cardani. Benvenuti a voi. Allora, torniamo a New York il 14 luglio 1938, ascoltate che cosa succede. Infrangendo tutti i record, Howard Hughes supera i più folli sogni di Jules Verne. Giro del mondo da New York a New York in 4 giorni, battendo di oltre 3 giorni il precedente primato di Wiley Post. Col ritorno rapido e sicuro del suo monoplano Lockheed, Hughes ha scritto una nuova pagina nella storia dell'aviazione. Un audace aviatore, un vero pioniere delle rotte aeree. Allora, Cardani, 4 giorni per completare il giro del mondo. Oggi sicuramente ci vuole meno, però direi che a occhio un paio di giorni ci vogliono, almeno per quanto riguarda gli aerei di linea e quello di cui intendiamo occuparci oggi. E tutto sommato, le dico, non sembra granché come risultato dopo altri 60-70 anni, anzi di più, di sviluppo aeronautico. Quindi la prima domanda che le faccio è questa: come mai a un certo punto la velocità degli aerei si è assestata, stabilizzata intorno ai 900-950 chilometri orari e da lì sembra non muoversi? Beh, in realtà abbiamo l'esempio del Concorde, che per anni ha volato a velocità ben superiori. Quindi la possibilità del volo supersonico è stata dimostrata anche in ambito civile, ma proprio la vicenda del Concorde dimostra come il tema della velocità sia arrivato ad un punto veramente decisivo. L'aerodinamica dei velivoli subsonici è diversa dall'aerodinamica dei velivoli supersonici. Per volare supersonico bisogna però spendere molta molta energia. Se pensiamo che metà del peso massimo al decollo del Concorde era combustibile, possiamo pensare quale sia il costo per volare così veloce. Quindi insomma diciamo che il balzo in avanti è molto difficile che avvenga anche nei prossimi anni, da quello che dice. Assolutamente, tant'è vero che siamo andati indietro. Oggi non è più possibile volare da Londra a New York e tornare in giornata, cosa che era possibile fino ad alcuni anni fa. Non è possibile a nessuno, perché non ci sono neppure velivoli militari che possono permettere questo. E la prospettiva del ritorno al volo supersonico è molto lontana, perché non possiamo crescere passo per passo da dove siamo con i velivoli subsonici o transonici, come sono gli attuali aviogetti, perché la velocità del suono, la barriera della velocità del suono, rappresenta una cesura. Passare al di là vuol dire cambiare completamente la filosofia di progetto degli aerei. Cioè cambia proprio la fisica del volo, la fisica dei, come dire, dei motori. I gas si comportano in modo completamente diverso sopra la velocità del suono e sotto la velocità del suono. Certamente, insomma, bisogna ridisegnare tutto. I profili alari sono diversi, le prese d'aria, quindi anche i motori diversi. Basta sempre pensare ad esempio al Concorde, alle sue prese d'aria molto più spigolose rispetto a quelle di un velivolo subsonico. Ecco, al contrario, sull'efficienza energetica mi pare che si stia lavorando abbastanza. È uscito nel 5° numero di Newton, quello di luglio, uno speciale sui trasporti, e c'è un rapporto abbastanza dettagliato su quello che le industrie aeronautiche stanno sviluppando, e qui invece l'attenzione per l'efficienza c'è. Ecco, come si fa a risparmiare invece energia con gli aerei di linea, quelli di cui stiamo parlando? Ma si è fatto tantissimo e si farà ancora di più. Se pensiamo che oggi noi trasportiamo più passeggeri di 10 anni fa, un considerevole numero superiore, consumando più o meno lo stesso combustibile. Questo dà già una misura dei progressi, ma i vari programmi che sono in corso in ambito europeo e non solo, come Clean Sky, prevedono di avere un miglioramento di circa il 20% nei prossimi 15 anni. Come si ottiene? Quali Questo sono le chiavi? Si ottiene in tantissimi modi, sia migliorando ovviamente i motori, ma rendendo gli aeroplani più leggeri e quindi con materiali nuovi. soprattutto materiali compositi a base di fibra di carbonio, con impianti che sono migliori da un punto di vista di peso e ingombro, da anche, ed è un aspetto che spesso viene ignorato, da una miglior gestione del traffico aereo, quindi rotte più brevi, meno tempi di attesa, non solo in aria ma anche al suolo, quindi una gestione globale di tutto il trasporto aereo. Ecco, senta, le faccio sentire il secondo audio tratto da Aviator, perché credo ci sia ancora un piccolo dettaglio. Un aereo moderno. Ah sì? Di che tipo? Dunque, il DC-3 ha 21 posti a sedere e 14 cuccette. Deve essere più grande. 50 posti, con una quota di tangenza di 12.000 piedi. No, 20.000. Pensaci, cosa ti danno 20.000 piedi di tangenza? Meno turbolenza. Perché è al di sopra delle perturbazioni. Noi vogliamo volare al di sopra delle perturbazioni. Solo l'1% della popolazione americana ha mai messo piede su un aereo di linea. Perché? Perché la gente è terrorizzata e ne ha motivo. A 7.000 piedi si balla che è uno schifo, e tu lo sai. Fabbrichiamo un aereo che voli al di sopra delle perturbazioni e convinceremo ogni uomo, donna e bambino... Dunque, Cardani, insomma, anche la quota di volo è stata molto importante anche negli ultimi anni per ridurre i consumi, o sbaglio? Certo, senza dubbio. La conquista della quota è stato uno degli elementi che ha spinto il progresso nell'aeronautica nei primi tempi, come la velocità e la distanza. Oggi la possibilità di poter far volare ad esempio più aeroplani negli strati alti dell'atmosfera, essendo riusciti a separarli di meno in quota, ha permesso di impaccare un maggior traffico nelle condizioni ottimali, sia da un punto di vista di conforto dei passeggeri che di consumi, e anche in qualche caso in un miglioramento della velocità, magari consumando un po' di più, perché le quote elevate permettono anche di migliorare le prestazioni in velocità dei velivoli. Secondo lei c'è, come dire, una tendenza ad aumentare, a salire ulteriormente? Ma diciamo che al di là dei 12.000 metri è difficile che si possa andare vista la fisica dei motori. Certamente anche in questo caso il Concorde aveva una crociera più elevata. Eh certo, perché lì tornerebbero in gioco di nuovo i voli supersonici, che anzi devono avvenire a quote estremamente elevate, perché a quelle velocità, se l'aria è densa, insomma, i consumi diventano stratosferici. Senta, siamo in un periodo nel quale si stanno anche facendo una serie di progetti un po' apparentemente strani, che però sono a mio avviso molto interessanti. Intanto c'è stato il volo poche settimane fa del Solar Impulse, quindi un aereo che funziona ad energia solare, la cosa impensabile per le automobili, per esempio, perché non hanno abbastanza superficie da offrire al sole, mentre il volo a energia solare è possibile. Il Solar Impulse ha volato per più di 24 ore. Secondo lei che cosa potrebbe venire fuori da questa direzione? Ma certamente quello del Solar Impulse è stato un grande exploit da due punti di vista: quello tecnologico, ma anche forse soprattutto da un punto di vista umano, perché ha riportato il pilota, il volo umano all'attenzione, perché velivoli analoghi al Solar Impulse, ma non pilotati, sono sperimentati, sono anche coperti magari da segreti militari, perché rappresentano una speranza notevole per la sorveglianza sul lungo periodo, essendo velivoli autonomi che non devono essere riforniti. Quindi la persistenza in quota, potendosi alimentare da una fonte di energia inesauribile come il sole, è il grande motivo che spinge questo aspetto della ricerca. Non è il trasporto delle persone o il trasporto delle merci, ma è la possibilità di mantenere per periodi molto prolungati degli osservatori, ovviamente in questo caso dei sensori, che possono controllare e osservare la superficie terrestre. Quello che peraltro è pensato anche per i dirigibili d'altissima quota, per la stessa ragione, la persistenza sulla zona da controllare per lunghi periodi senza dover rifornire. Ecco, senta, le faccio sentire uno stralcio preso da un'intervista con David King, che ho incontrato qualche mese fa. David King dirige la Smith School of Enterprise and Environment dell'Università di Oxford, che a proposito di dirigibili bene dice delle belle. Sentiamo. I'm forecasting. La mia previsione è che in futuro il trasporto merci potrà avvenire anche con mezzi del tutto assenti nel panorama moderno dei trasporti. Parlo dei dirigibili, che grazie alle tecnologie moderne possono divenire mezzi molto efficienti. Per esempio, per trasportare frutta dalla Spagna all'Inghilterra. Dirigibili che possono muoversi velocemente a oltre 100 km orari e trasportare carichi pesanti da depositare esattamente dove serve, senza bisogno di aeroporti. Dunque, ci sono anche parecchie aziende che stanno lavorando anche a dirigibili antincendio, a dirigibili per trasporti pesanti, per evitare le scorte sulle autostrade. Lei cosa ne pensa? Questo del trasporto di carichi non solo pesanti ma anche ingombranti tramite dirigibili è un tentativo che si sta sperimentando da più anni. Addirittura una delle applicazioni che viene spesso citata è l'esbosco dei tronchi dalle grandi foreste canadesi piuttosto che in Siberia, dove non ci sono strade. Però alla fine, quando si arriva veramente ad affrontare il problema, magari anche realizzando qualche prototipo, ci si scontra sempre col grande tema che è la controllabilità di questi mezzi nella vicinanza del suolo, la loro condizionamento da parte degli agenti atmosferici, che rende difficile avere una regolarità di servizio e quindi la loro impossibilità di poter essere usati in tutte le condizioni, in tutte le situazioni che si richiederebbero. Certamente è una prospettiva affascinante, ed è questo uno dei motivi anche proprio per il fascino della macchina, per cui non la si vuole abbandonare. Ma certamente io vedo di più la prospettiva che dicevo prima, dirigibili non abitati ad altissima quota per sorveglianza, oppure anche per prendere il posto ad esempio dei satelliti, quelli che volano a delle quote poco elevate su delle orbite basse, per sostituirli come ad esempio transponder per trasmissione. Dunque, se pensiamo per esempio alla rotta Milano-Roma, oggi come oggi il treno è divenuto molto competitivo. Ecco, come vede il rapporto fra questi due mezzi? L'aereo si utilizzerà sempre di più solo per spostamenti molto lunghi? Cosa ne pensa? Ma nell'ambito però del trasporto aereo ci sono delle macchine nuove che possono diventare competitive, che sono ad esempio i convertiplani oppure gli elicotteri veloci. Questo è un settore, una nicchia dell'aeronautica, dove invece la ricerca della velocità sta venendo avanti prorompente. Che cos'è un convertiplano? Ecco, di pochi giorni fa il nuovo record di velocità per elicotteri, 250 nodi circa. Convertiplano è una macchina che può atterrare e decollare come un elicottero, ma poi in volo le palle del rotore vengono ruotate e quindi diventa un turboelica come ne conosciamo, come la TR-42. Allora abbiamo un mezzo che nella attuale realtà operativa vede solo il V-22, un mezzo dei Marines, ma che in fase in vola il BA-609, che è della Bell e della Augusta Westland, quindi un prodotto in larga parte anche italiano, per un numero ridotto di passeggeri, per 9 persone, ma che in prospettiva potrebbe anche essere per più persone, e quindi in grado di decollare da un centro di una città, di atterrare nel centro di una città, diciamo comunque non in aeroporti distanti, a velocità che sono superiori ai 500 km all'ora. Perché certamente con gli attuali aviogetti o con anche i turboelica tradizionali, sulle tratte fino ad alcune centinaia di chilometri, che possono anche essere 700, 800, 900 km, la concorrenza col treno, perlomeno su alcune tratte, diventa assolutamente difficile. Certamente l'ideale sarebbe riuscire ad integrare i due mezzi, cosa che invece in Italia è stata fatta in maniera assolutamente... Non è stata fatta, diciamo così. Va bene, grazie Cardani. Prego, grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi, grazie a Luca Rinaldi in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 24.